Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi torna innanzitutto a trovarci un vecchio amico come Ilario Castagnere. Bentornato Ilario. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Senti, non ho la pretesa di essere originale perché so che in questi ultimi tempi ne hai già dovuto parlare spesso, ma insomma, prima di Leonardo e prima di Zaccheroni eri stato tu l'antesignano, insomma, diciamo nei primi anni Ottanta, del passaggio dalla panchina del Milan a quella dell'Inter. E per quel che ne ricordo io di allora, poi andiamo a vedere i numeri e le date, ma insomma i milanisti la presero anche peggio di quanto non sia successo adesso con Leonardo. È un ricordo anche tuo? Sì, diciamo che la presero peggio, ma non con me. Almeno l'impressione che ho avuto io è quello che ho potuto notare immediatamente dopo il mio esonero, perché bisogna ripartire dal fatto che c'era io e Farina non andavamo d'accordo, avevamo rotto sui problemi di organizzazione della squadra per l'anno successivo. Io avevo il Milan che arrivava 20 volte per stagione sul fondo, 20 volte per partita, scusa, sul fondo, e avevo bisogno di un colpitore di testa, cioè avevo Serena. Invece Serena a Farina non piaceva, non lo prese, da lì cominciarono i nostri scontri. Sì. Per cui lui in pratica a un certo punto cominciò a sentire altri miei colleghi, perché lui pensava di sostituirmi, io lo venni a sapere, e a quel punto lì poi dopo il primo contatto con l'Inter, io in pratica detti la mia parola e la mantenni al momento giusto. Certo. Vediamo sempre se riesco a costruire. Dunque, tu il primo anno giocasti col Milan in Serie B, perché era stato retrocesso d'ufficio. No, non d'ufficio. Quella era quella famosa di Prisco, la famosa battuta di Prisco. Quel rilancio con le mani fatto a Napoli. Certo. Il portiere che sbagliò sì. E mise la palla sui Castellini. È vero. Per quella che Prisco battezzò la retrocessione per meriti sportivi, no? A differenza della precedente. Quella, vabbè. Comunque tu vincesti il campionato di B. Avesti quegli scontri estivi con Farina, restasti alla guida del Milan, che anziché il centravanti trasformatore di cross dal fondo che tu cercavi, acquistò niente meno che Blissett, se non ricordo. Esatto. E poi a marzo, per sopraggiunti dissapori, venisti sostituito da Italo Galbiati, proprio perché c'era già stato questo accordo. Il problema era che Farina intendeva riconfermarmi, perché lui aveva capito che la piazza mi voleva confermare, sì, che la squadra giocava un ottimo calcio. E io a quel punto lì dissi: io resto al Milan se lei se ne va, se lei cede. E naturalmente lui pensava di restare lì, perché evidentemente pensava che il Milan fosse un affare. E mi esonerò. Lui provò anche a offrirmi praticamente molto più di quanto prendevo, sì, e mi esonerò. E io mi ricordo una frase di Rivera la domenica successiva al mio esonero, una partita Milan-Napoli a San Siro, Milan perse 2-0 in casa, e Rivera disse, sulla contestazione che lo stadio fece nei confronti di Farina, tutto lo stadio proprio contro Farina, sì, e Rivera disse: io in tanti anni di Milan non avevo mai visto una situazione del genere. E questa fu per me una soddisfazione. Lo credo. Ma mano a mano che parli, i ricordi da cronista di allora stanno affiorando. Poi facesti molto bene all'Inter la prima stagione, perché sì, terzo in campionato, ma lottando per il titolo fino alla fine. Sì, sia per il titolo che per la Coppa UEFA. Noi perdemmo la semifinale di ritorno a San Siro a Madrid, dopo aver vinto 2-0 l'andata. Non succede mai che una squadra viene buttata fuori così. Fu quella volta della biglia in testa a Bergamo. Come no? Quindi facemmo un buon lavoro. E l'anno successivo tutti aspettavano che noi ci staccasse il mondo, invece la Juventus partì con 8 vittorie su 8, fece 16 punti. Noi invece ne facemmo due o tre di meno, e quindi quel problema creò poi i problemi più grossi per me. E fu il primo esonero, credo, deciso dall'allora presidente Pellegrini. Sì. Che ti sostituì con Mario Corso, che era però non era un uomo di Pellegrini, ma era un uomo di Moratti, che sarebbe però poi arrivato a 10 anni di distanza. È carina. Scusa, questa visto che siamo qui, io ecco, vorrei ricordare, perché mi ricordo bene, dopo 2 anni io ero ad Ascoli e mi entrò nello spogliatoio dell'Ascoli Pellegrini e sì, mi disse testuale: se lei mi avesse aperto gli occhi su un uomo che sì, era un collaboratore suo in quel momento lì, sì, del quale io non posso parlare, sarebbe certo ancora allenatore dell'Inter. Ecco, questo è una frase che mi fece anche quella piacere, perché lo credo. Io ho individuato il soggetto, non ha nessuna importanza a distanza di così tanti anni, però è bello ogni tanto, secondo me, dare questi sguardi dal ponte, no, Ilario? Sì. No? Con ripercorrere il passato, con ovviamente con il distacco con cui lo si vive a distanza di così tanti anni, perché allora il tuo distacco era un po' inferiore, evidentemente, no? Sì, io avevo la coscienza a posto di aver fatto un buon lavoro, tant'è vero che tuttora sono molti tifosi di Inter e Milan, quando mi incontrano mi salutano cordialmente e si ricordano di due squadre che giocavano con me un ottimo calcio. Molto bene. Dunque, Ilario, secondo te perché io era un po' che avevo in canna questo Amarcord e questa ricostruzione, perché, ripeto, il passaggio di Leonardo da una panchina all'altra non poteva, no, scatenare la ricerca ai precedenti. Ma secondo te perché ho scelto oggi, così a occhio? Perché è Sant'Ilario. Ecco, bravo. E allora, evidentemente, dato che ho mancato di poco un compleanno di cifra tonda nello scorso dicembre, sì, no? che ti riguarda, sì, ho detto almeno ci rifacciamo con l'onomastico e con gli auguri più affettuosi di Sant'Ilario, che poi è anche il patrono di Parma, tra l'altro. Oggi è la grande festa dei parmigiani, anche se questo invece ti direttamente ti riguarda di meno. Senti, arriviamo a... adesso abbiamo ricostruito il tuo passaggio. Quello di Zaccheroni fu parecchio diverso, non ci fu nessuna conflittualità, perché lui allenò il Milan dal 98 al marzo 2001, ma all'Inter arrivò nella stagione 2003, quindi ormai era passato un sacco di tempo, entrò in corsa per Cooper dopo 7 giornate, insomma, quindi non c'era... Quello di Leonardo, in un certo senso, ha ricordato un pochino di più il tuo passaggio, perché anche in questo caso sono passati 6 mesi circa ed è chiaro che un minimo di risentimento da parte dei milanisti non poteva non esserci. Allora, hai spiegato bene, fu nei confronti del presidente. Stavolta, dato che prima di prendersi col presidente bisogna andarci un po' pianino, stavolta si era sorpresa direttamente con lui. Beh, ma io non credo che meriti di essere, non sai, si parlava di traditore a un certo punto, no? Perché il suo rapporto con il Milan era terminato, lui in pratica è un professionista, allenatore, e il fatto che abbia, era, se vogliamo dirlo, disoccupato, certo, e il fatto che abbia accettato un'offerta di lavoro, secondo me non può fargli dire che è un traditore. Semmai, secondo me, possiamo dire che è un allenatore fortunato. Perché? Perché di solito gli allenatori, per arrivare a certe posizioni, devono vincere, fare, sì, gavetta, vincere, certo, vincere. E Leonardo, invece, il primo anno di lavoro, allenatore del Milan. Il secondo anno di lavoro, allenatore dell'Inter. Ah, quindi possiamo dire solo che è un uomo fortunato. Questo sì. Nient'altro. Questo sì. Facciamo un breve intervallo, Ilario. Nel frattempo sto registrando gli auguri che ti arrivano, per esempio da Sergio di Vignola, per esempio da Andrea, che scrive: buono onomastico a un grande signore storico come Castagnere, eccetera. E poi ce n'è una che ti farà ancora più piacere, perché ricordo dei numeri del tuo Milan. Adesso sentiamo come va su strade e autostrade. Allora, mi sono sbagliato a anticipare questi numeri del Milan scritti da un ascoltatore, che subito un altro, perugino, che si chiama Paolo, dice: i numeri del Milan, ma l'imbattibilità di Perugia piuttosto, e poi Novellino, Bagni, il povero Curi, devo andare avanti. Questo per dirti, Ilario, come la bandiera tua perugina sia tuttora sventolata con io ho avuto avuto un enorme piacere, proprio un giornale di Perugia il giorno del mio compleanno, sì, un'intera pagina con la mia fotografia, un titolo a 9 colonne scritto un totem senza età, buon compleanno, Ilaria Castagnier compie 70 anni. Beh. E beh, poi è stato un piacere enorme quello che mi hanno fatto. Lo credo. E devo dire, mi sono commosso. Lo credo. Era il 18 dicembre dello scorso anno, quindi insomma era meno di un mese fa. Poi arriviamo con i numeri del Mina, ma insomma abbiamo preso un raccordo. Allora percorriamolo un pochino di più. 3 giorni dopo muore Enzo Bearzot e tu il giorno stesso, tra tanti ricordi che si intrecciavano da tutta Italia e da tutto il mondo, tu ne dicesti uno che rimbalzò sulle agenzie e che io immediatamente diedi conto qui in diretta, perché tu dicesti una cosa bellissima secondo me, che è questa: è grazie a Bearzot se oggi gli allenatori hanno la pensione. Ce la spieghi? Sì, io ero in quel periodo uno dei 2 vicepresidenti degli allenatori e Bearzot, quando ci incontravamo a Coverciano, mi diceva sempre: Ilario, guarda, noi dobbiamo cercare di alzare, non è che non ce l'avessero, di alzare il minimo, il massimo su cui pagare i contributi, perché la pensione degli allenatori in questo momento è ridicola. Allora dice: noi dobbiamo cercare di alzare questi versamenti per avere poi certo, un po' di tranquillità nel momento in cui andremo in pensione. E in pratica ci adoperammo per quello, e insomma Bearzot fu quello che lo iniziò. Poi noi, certo, io lì parlando con i miei collaboratori, parlando con gli altri allenatori, in pratica portammo avanti questa pratica. Certo. Senti, quei numeri del Milan li liquido velocemente, anche perché era un campionato di Serie B, insomma, che quindi i milanisti possono ricordare con un piacere molto relativo. Però questo Marcello da Milano scrive: io ricordo un autentico calcio spettacolo in quella categoria, con 77 gol in un anno e con una grande squadra, con Jordan, lo sdentato, no? che trasformava tutto il lavoro e i cross di Damiani, di Pasinato e di tanti altri. Grazie ancora Ilario, che mi sembra, a distanza di tanti anni, mi sembra un bel messaggio e un bel dato. Mentre invece si diceva di Perugia e di questa e della memoria storica che non possono non avere nei tuoi confronti i perugini, è ancora proponibile oggi, secondo te, nel calcio attuale, un modello fondato su 3 persone, e cioè, io ti dico il mio ricordo di allora, visto che frequentai Perugia a lungo: uno straordinario presidente signore come D'Attoma, un grande manager e cane da tartufi come Silvano Ramaccioni, e un grande allenatore come Ilario Castagnier. Sì. Noi avemmo la fortuna di trovarci insieme, avemmo la fortuna di poterci praticamente creare la squadra, perché come ci trovammo insieme dell'anno precedente tenemmo 2 giocatori, li cambiamo completamente e cominciamo subito a vincere, perché in 15 partite in pratica raggiungiamo la Serie A. Dicono tante volte che ci vogliono anni per mettere insieme la squadra, ma se uno fa bene la formazione di luglio, poi i risultati poi li raccoglie subito in pratica, per poi perfezionarlo nell'anno successivo e arrivare a quell'incredibile record di imbattibilità di un Perugia mai sconfitto in 30 giornate, secondo alle spalle del Milan in quell'anno, ma essendo arrivato vicinissimo a vincere addirittura il campionato. Sì, no, fu una escalation la nostra, perché noi vincemmo subito il campionato di Serie B, poi facemmo un 8º posto, un 6º posto, un 2º posto. E poi l'anno successivo, l'anno che arrivò Rossi, tutti dissero che Rossi aveva creato dei problemi, ma non è vero, secondo me, perché Rossi fece un ottimo campionato qui. Quello che buttò all'aria una società, il lavoro di tanti anni, fu il calcio scommesse. Certo. Noi alla fine del giorno d'andata dell'anno del calcio scommesse eravamo terzi, poi il ciclone del calcio scommesse in pratica buttò per aria tutto, perdemmo, non mi ricordo se 6 o 7 partite a fila, noi che in pratica non avevamo perso una partita per quasi 40 partite. Certo. Senti, no, ti chiedevo se sarebbe ancora proponibile il modello di allora, perché poi... No, io penso che sia più difficile adesso, perché anche perché noi diciamo che il nostro era un merito sportivo, adesso le squadre che hanno più possibilità di... più ricche, che hanno più possibilità in pratica di investire, si vanno a prendere i giocatori migliori, è impossibile che una squadra di provincia ora per meriti sportivi possa lottare per vincere uno scudetto. Senti, Gaetano, in maniera un po' impertinente, però lo perdoniamo, dai. Gaetano da Lucca domanda: vorrei, se è possibile, che Ilario Castagnari ci facesse un accenno a quando Gaucci provò a imporgli una formazione. Stiamo parlando evidentemente di epoche successive. No, è vero. Cioè, è vero che ci fu la prima... Io, diciamo, nell'98-99, e presi la squadra negli ultime 11 partite, facciamo 7 vittorie e 4 pareggi, raggiungemmo il Torino e facciamo lo spareggio col Torino e vincemmo il campionato, certo, tornando in Serie A. Nella prima partita del giro di Serie A dell'anno successivo, Perugia-Juventus, esordio di Nakata, alla fine del primo tempo noi stavamo perdendo, non mi ricordo adesso se 2-0, adesso non mi ricordo, e Gaucci telefonò a Pieroni, che era in panchina con me, e gli disse di al mister che deve cambiare, e mi disse il nome di due giocatori. Era la prima volta che mi capitava, devo dirlo, e io gli dissi digli che vada a fan e non continuo, anche in pratica Gaucci non poteva esonerarmi subito, no? Esonerò il mio secondo, fece un po' di vuoto intorno a me, però poi con Gaucci si parlava molto bene a palle ferme dopo 48 ore. Sì. Io gli spiegai il motivo delle mie scelte e lui l'accettò, in pratica buttò più fuori il mio secondo, anzi organizzò una festa nella sua castello di Ortecor, invitando una novantina di persone, tra i quali una cinquantina di giornalisti, e a ogni invitato fece un presente, proprio perché era di un cuore d'oro, praticamente. Era impulsivo, però era anche generoso. Sì, e si trattava al momento giusto di saperlo stoppare, no? Di saper non ascoltare. Il momento in cui lui era partito conveniva scansarsi, farlo andare, farlo sfogare e poi parlare a bocce ferme. Ilario, la domanda finale è: tra Milan e Inter, cioè tra i ricordi che tu hai di queste due piazze, che vuol dire società, tifoserie, giocatori, vuol dire suggestioni, colori delle maglie, a chi di queste due sei rimasto più affezionato? Ma io devo dire che quando ero ragazzino ero un simpatizzante, ero un tifoso dell'Inter, poi quando sono diventato professionista chiaramente ho cercato di essere imparziale, certo. Poi col passare del tempo ho avuto più amici al Milan. E quindi è rimasta un pochino, semmai, questo orientamento. Ti ringrazio davvero di cuore, Ilario, per questa partecipazione. Niente, un ringraziamento a te che mi ha mai ricordato tante una vita di calcio. Vita di calcio. Beh, la prossima volta, non potendoci ripetere, andremo a prendere qualche altro marcore della tua lunga e ricca carriera. Grazie, Ilario. Grazie, un abbraccio, un saluto a tutti. E buon onomastico ancora. Visto che siamo sull'onda dei ricordi, ce n'è uno doveroso, perché ieri mi ha scritto alcuni ascoltatori, ne ho scelta una, Mauro da Pisa, che dice: le sarei grato se potesse commentare e ricordare la scomparsa di Andrea Arrica, presidente galantuomo d'altri tempi, che di quel Cagliari che nel 70 compì l'impresa magica di vincere lo scudetto. So che lei farebbe contenta tutta la Sardegna, i sardi per il mondo, eccetera eccetera. Adesso, senza esagerare, Franco Piantanida ha scovato ha frugato in archivio e ha scovato per l'appunto un ricordo migliore di quello che potrei fare io, e cioè il racconto originale di una volta in cui Arrica ricostruì l'acquisto di Gigi Riva. Io ero intimo, proprio intimo amico del presidente del Legnano, che si chiamava Luciano Caccia, il quale mi ha detto: guarda, il primo Riva è del Cagliari, tu non se ne parla neanche. Ha promesso. eravamo a Roma nella partita Italia-Spagna Juniores e c'era anche il Bologna, c'era la Lazio, c'erano tante squadre che lo volevano e Riva giocò un pessimo primo tempo, una cosa disastrosa. E Caccia mi ha detto, guarda, lascia perdere, se non lo vuoi prendere. No. Ho detto, lo prendiamo noi. Sono sempre stato fortunato negli acquisti, perché sinceramente dalla C fino a là non avevamo mai sbagliato un acquisto. Beh, era davvero uno dei re del calciomercato, Andrea Rica, che è scomparso ieri a Cagliari all'età di 85 anni. Intervallo dopo la prima parte del nostro programma, nella seconda attualità e i vostri interventi in diretta. Come sempre sentiamo come va sui mercati. Torniamo con qualche frammento legato alla Coppa Italia, che ha visto una parte di partite giocate ieri sera, un'altra parte stasera. Sentiamo la vigilia, per cominciare, di Juventus-Catania, nelle parole di Marotta, che ricorda come la Coppa Italia sia un obiettivo prioritario per la Juventus. Questa rosa deve essere in grado di competere per due obiettivi, che è quello di fare ottimamente in campionato e quello di fare altrettanto ottimamente in Coppa Italia. Ecco, sono i due trofei, le due competizioni a cui partecipiamo e quindi dobbiamo assolutamente dare tutto ciò che noi possiamo dare. Chiaramente molto dipende anche dagli infortuni. Tra l'altro il rientro di stasera di Buffon tra i pali della Juventus dopo così tanti mesi, direttamente dal Mondiale infausto in Sudafrica, è certamente un motivo in più di interesse per questa partita, al di là del risultato e della qualificazione. E ieri sera c'è stata invece la doppia sfida, prima Palermo-Chievo e poi quella tra Inter e Genoa. Sentiamo Delio Rossi, perché il Palermo ha spesso e sottolineato in questi giorni come in tutto il girone d'andata non abbia fruito nemmeno di un calcio di rigore. Ieri ne è arrivato uno in Coppa Italia. Sentiamo come l'ha presa Delio Rossi. Sapevo che avrebbero fatto bene, solo che magari c'era l'incognita che certi giocatori li vedevi dopo tanto tempo, certi erano fuori perché avevano giocato altri, certi altri sono arrivati da una settimana e tu dovevi assemblare la squadra, fare una formazione logica, vedere dei giocatori che non avevi visto e soprattutto passare il turno. Non sapevo chi lo doveva battere perché non siamo più abituati. No, poi ho visto Mico e ho detto vai tu a calciarlo, ma il fatto che non ce li danno mai, quindi non ci siamo neanche allenati ai rigori. Infatti se fossimo mi sarebbe dispiaciuto andare a supplementare i rigori perché non siamo proprio abituati a batterlo. E vabbè, gliela passiamo e gliela diamo per buona, anche perché poi è un dato oggettivo. Era il primo rigore che il Palermo calciava in questa stagione sportiva. Francesco ha chiamato da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Io le vorrei dire, ricordo di Castagnier, mi ricordo di un Napoli-Perugia 0-1 che si lottava per lo scudetto negli anni 80 con una Dogo di Ferrari, mi ha fatto tornare indietro veramente di tantissimi anni. E le volevo chiedere un'altra cosa. Secondo lei il Napoli ce la fa arrivare in Champions League? Secondo lei, una giornata. Secondo lei il Napoli ce la fa arrivare in Champions League? Beh, insomma, è ben messo, è ben piazzato, però siamo soltanto a metà del cammino. A occhio sì, io a occhio ci sono solo due squadre certamente più forti del Napoli quest'anno, che sono il Milan e l'Inter. E questo si sapeva anche prima, però insomma, attualmente il Napoli ha l'Inter davanti pur contando i recuperi, dal Milan è staccato di poco, la terza forza che è la Roma sta stentando più del dovuto e quindi mi pare che il Napoli nelle prime quattro ci dovrebbe stare, vista la flessione improvvisa, anzi il crollo momentaneo della Juventus. Poi questo è stato il girone d'andata, mo vediamo il ritorno. Marco è in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Io chiamavo per questo, siccome sono un vecchio tifoso milanista del 68 che ho la tessera e volevo accomunare un po' il discorso di Castagnier con Leonardo, nel senso che le trovo due persone ottime fuori dal campo, come persone meravigliose, però il tifoso milanista, sia per Castagnier che per Leonardo, parlando da tifoso e quindi non da persona che ragiona al 100%, si è sentito un po' tradito da questi due uomini, soprattutto secondo me da Castagnier, perché mi ricordo che girava voce che mentre lui era allenatore del Milan aveva già firmato un precontatto per il prossimo anno con l'Inter. L'ha ammesso anche lui, se ha ascoltato la sua intervista, lo ha appena riconosciuto questo Castagnere, ma per dissapori col presidente di allora. No, ma un tifoso queste cose non le concepisce, non le capisce, soprattutto un tifoso giovane, magari uno come me a 50 anni adesso ci ragiona, uno è un professionista, guarda giustamente la sua carriera, però il tifoso non può capire queste cose, e mi sembra anche giusto che non le capisca, sennò lo sport sarebbe soltanto un dare avere di soldi e ma siccome c'è il sentimento, c'è il pathos, c'è l'amore per la squadra, il tifoso queste cose non le può capire, tant'è vero che Castagnere fra di noi era soprannominato il Giuda. Addirittura il Giuda. Sì, insomma, allora intanto le analogie sono, e ne abbiamo parlato a lungo prima, le analogie sono relative perché la differenza fondamentale è che il Milan di allora avrebbe voluto trattenere Castagnere alle sue condizioni ovviamente, e cioè non accontentandolo sui giocatori e facendo gli affari che amava fare il presidente Farina, e cioè Serena no, ma non perché non fosse buono, ma perché doveva arrivare Blissett, e chissà che su Blissett non ci fosse già allora qualche, come dire, facility, magari di mercato, vista poi la caratura del giocatore, eccetera eccetera. Il caso Leonardo è completamente diverso. Leonardo è stato scaricato dal Milan e con ignominia, tra l'altro, no? Gratuita a parer mio. E dopodiché, e non solo mio, dopodiché Leonardo è stato liberissimo all'istanza di 6 mesi di accettare un'altra proposta di lavoro. Poi ha ragione Ilario Castagnere, ammazza se è fortunato Leonardo, che A, non voleva fare l'allenatore di mestiere, perché questo ce lo ricordiamo bene, non voleva saperne, e visto che qualcuno lo ha costretto, insomma, le prime due squadre allenate sono state nell'ordine il Milan e poi l'Inter, insomma c'è di peggio, no, nella carriera di un tecnico. Corrado ha chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Non so se c'è ancora in linea Castagnere, no, perché la mia domanda era per lui, però possiamo fare lo stesso. Mi chiedevo se nel calcio di oggi, considerato e tolto via, diciamo, quel certo numero di allenatori di un certo livello, come mai un allenatore come Castagnere, bravo secondo me nel proporsi fuori dal campo, molto bravo in campo, e ancora oggi bravissimo nel leggere le partite, basta sentire qualche volta qualche commento diciamo su qualche televisione, si sia diciamo praticamente tolto dal campo presto, voglio dire, cioè, ma si sarà tolto non vedo Castagnere in giro oggi onestamente nel nostro calcio, sarà cambiati i tempi, ma sa Corrado, intanto bisogna vedere se si è tolto dal campo o se l'hanno tolto dal campo, prima questione. Secondo, il calcio non è il basket, eh? E glielo dico perché Ilario Castagnere, prima alludevamo a questa cifra tonda, il 18 dicembre del 2010, quindi 20 giorni fa, ha compiuto 70 anni. Calcio, nel basket possono tornare ad allenare la seconda squadra d'Italia attualmente anche gli uomini del 75, cavandoci il cappello di fronte al carisma, alla freschezza mentale e alla voglia che ha ancora Dan Peterson. Però quello è il basket, evidentemente il calcio quel tipo di longevità non la comporta, e io sono abbastanza d'accordo su questo. Ci sarebbe una. Sentiamo, no, perché c'è un messaggio prima di. No, sono tanti messaggi, ma insomma c'è uno in particolare. Dennis scrive: secondo lei, se ieri sera Ranocchia avesse ancora avuto la maglia del Genoa, sarebbe stato espulso o soltanto ammonito come è stato con la maglia dell'Inter? Beh, guardi, Dennis, è una domanda che ha una risposta facilissima, per esempio quella che ha dato ieri sera Ballardini e che io condivido in pieno. Sentiamo. Il Genoa ha fatto una buona partita, ha creato più, credo, dell'Inter. Poi quando si viene qua si sa che le cose vanno così. Ma guardi, ma c'è sempre stata, quindi non è una sorpresa. Si viene qua a Milano, si sa che si deve fare una grande partita e non devono esserci degli episodi così dubbi, perché il dubbio, l'arbitro fa sempre il suo dovere, ma è un po' condizionato dal nome della squadra che ci ospita. Così, tanto senza tanti giri di parole, no, in effetti. Era Coppa Italia, quindi in Coppa Italia tutto, per fortuna, tutto viene vissuto con un pochino più di distacco, ma certo, se fosse stato campionato l'episodio avrebbe avuto certamente un'altra risonanza. Paolo dalla provincia di Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho chiamato perché sentendo Castagner è stato un ricordo di anni trascorsi, da milanista, di anni difficili, veramente molto difficili, e quindi mi ha fatto molto piacere perché Castagner è stato un allenatore che è stato poco al Milan ma ha fatto bene, soprattutto per la promozione dalla Serie B, insomma, non era così scontata. E volevo soltanto dire che la differenza con Leonardo è che Leonardo mi sembra è stato tanti anni al Milan come dirigente, cioè questo cambio è sicuramente diverso e pesa in maniera diversa per Leonardo piuttosto che per Castagner, ecco. Credo che ha ragione. Se riflettiamo sulla durata della militanza, sul fatto che Leonardo era stato anche giocatore, ma soprattutto poi dirigente, che si pensava che quella rossonera fosse una specie di seconda pelle, in effetti è giusto dire che quello di Leonardo ha fatto più sensazione. Ne ha fatta di meno se si esamina solo il percorso di panchina, insomma, il raffronto di panchina tra i due. Ma se si pensa alla durata della militanza, lei ha certamente ragione. È anche vero che Leonardo, come dire, si è sentito libero proprio perché è maltrattato, no? al momento del suo congedo. 13 anni in totale comunque è durata la sua esperienza in rossonero, quindi insomma, ripeto, lei ha ragione, perché non sono pochi 13 anni tra calciatore, poi dirigente e poi allenatore. Luigi, provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno signor Granzini. Dica. Tanti complimenti per la trasmissione. Volevo da lei sapere qualcosa del Napoli, se stiamo andando bene, se c'è bisogno di qualche aiuto, se è solo fumo. Aiuto? Sì. Qualche aiutino? Che vuol dire qualche aiutino? Ci vuole? Cosa significa qualche aiutino? No, qualche giocatore in più, se andiamo bene così ce la facciamo andare avanti. Non sono all'altezza, sinceramente. Così va bene, certo, ci fosse un po' più di qualità anche negli altri due reparti, cioè non soltanto davanti, ci fosse un po' più di qualità in mezzo al campo e soprattutto in difesa, le cose andrebbero anche meglio, ma insomma bisogna andare per gradi, e mi pare che per il momento il Napoli di strada, la strada la stia percorrendo bene, e ne abbia già fatta tanta in questa stagione. Intervallo, strade. Scrive Lori da Milano, parole di Materazzi sulla Gazzetta. Allenare l'Inter per Benitez era come dare una Formula 1 in mano a un vigile urbano. Lori, non ho letto l'intervista, la prendo per buona. Condivido quello che ha detto Materazzi, pensando al fatto che Benitez schierò Materazzi nel derby su Ibrahimovic e si sono viste immediatamente le conseguenze, e si è visto non solo il risultato ma anche come è maturato. Torniamo alla Coppa Italia, sentiamo anche la versione di Leonardo sulla partita di ieri sera tra Inter e Genoa. Se devo dire, il secondo gol preso mi ha un po' dispiaciuto, perché abbiamo lavorato anche tanto, abbiamo parlato tanto, sicuramente i calci piazzati possono decidere una partita, per quello l'attenzione è importantissima, però credo che la squadra ha dimostrato anche in certi momenti di difficoltà di esserci, nel senso vince 2-0, prendi un gol e subito c'è una reazione, questa è una cosa fondamentale. Forse noi 3-1 dovevamo gestire meglio il pallone, tenerlo più noi per non soffrire, per non dare all'avversario il campo, e quello, neanche quello è successo. A finire che i milanisti si arrabbieranno una volta di più con Leonardo, perché è ancora più sfiatato dopo le partite dell'Inter di quanto non fosse con quelle del Milan. Lui la voce roca l'ha sempre avuta, alla fine di una partita, perché evidentemente urla troppo in campo e non è abituato ad urlare, questo lo si vede, perché è una personcina a modo come si deve. Però così roco non l'avevo forse mai sentito dopo una partita del Milan. Se lo è dopo una partita dell'Inter di Coppa Italia, ecco che potrebbero scatenarsi nuove gelosie rossonere. Sembra ieri, la rubrica di Nicola Filippone, sentiamo che cosa ha scovato per il giorno 13 gennaio. Sembra ieri. 13 gennaio 1974. Scatta da Buenos Aires il mondiale di Formula 1 e la Ferrari si presenta al via con una nuova coppia di piloti destinati a lasciare il segno. Sono lo svizzero Clay Regazzoni, per la seconda volta la Ferrari, e il 24enne austriaco Niki Lauda. Lauda guadagnerà la ribalta conquistando 9 pole, ma sarà Regazzoni a lottare per il titolo. Alla fine si dovrà accontentare però del secondo posto, alle spalle di Emerson Fittipaldi. Al brasiliano della McLaren, per trionfare sarà sufficiente conquistare 3 Gran Premi su 15. Sto andando a vedere l'allenamento del Bari, mi scrive Enzo da Altamura. Lei come si comporterebbe con Ventura? Fiducia o esonero? Fiducia. Fiducia nel modo più assoluto. Fiducia e... I salud, no? Un po' di salute per i giocatori, un po' di guarigioni il più rapide possibile e poi la speranza che questo sia sufficiente a salvare Bari, anche se la situazione è abbastanza compromessa. Riccardo ha chiamato da Livorno. Buonasera signor Garancini. Dica. Allora, la premessa, volevo farle complimenti per la trasmissione e a lei e dirle che io sono d'accordo con lei anche quando non sono d'accordo, per come si pone e per il tipo di giornalista che è. Beh, vabbè. E che in televisione ci vorrebbe qualche Massimo Mauro in meno e qualche Gigi Garancini in più la domenica pomeriggio. Detto questo, per tornare a Leonardo, sentivo prima che con un radioascoltatore il discorso della curva del Milan, delle contestazioni. Le contestazioni sono dovute soltanto al fatto che non più tardi del fine ottobre Leonardo alla Gazzetta dello Sport aveva rilasciato un'intervista con la quale diceva che non era disponibile ad allenare in Italia ancora perché si sentiva milanista dentro, milanista sulla pelle. Altrimenti queste contestazioni non ci sarebbero state, visto che i milanisti erano d'accordo più con Leonardo che con la società alla fine della scorsa stagione. Tutto qui, l'ascolto. Sì, in effetti quelle frasi se le poteva risparmiare, insomma, o comunque essere un po' più possibilista, no? perché dato che il calcio è l'arte del più che l'arte del possibile, è l'arte dell'impossibile, bisognerebbe che i protagonisti ne tenessero conto più spesso, anzi sempre. Non c'è, insomma, il mai dire mai credo che non esista più nella vita di oggi in assoluto, però certamente non esiste in politica, certamente non esiste nel calcio, certamente non esiste almeno in questi mondi, ecco, tenerne conto più spesso, quindi evitare il proclama, oppure una volta fatto provare a essere coerente con questo, da quel lato lì sì, certo, nessuno l'ha costretto a dire quelle frasi. Enzo da Forlì, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io ho una convinzione, così, anzi diciamo più per la precisione un'opinione, quella che Leonardo si sia comportato in modo scorretto, in particolare col Milan, perché è stato praticamente creato, formato come allenatore dal Milan. Leonardo era un dirigente che girava il mondo procurando buoni giocatori alla società rossonera. A un certo punto è passato dalla scrivania al campo, ha ricevuto una popolarità nuova, un nuovo affetto dai tifosi e alla prima opportunità è passato esattamente sulla riva opposta, quindi c'è anche questa chiave di lettura, il fatto che lui prima non fosse probabilmente nemmeno un allenatore di calcio, quindi insomma ci vuole un minimo di decenza, ecco. No, io in questo non lo darei. Quando io credo che la voglia di rivincita che gli è scattata dentro quando il suo datore di lavoro lo ha imputato lo scorso anno, ma non in maniera eufemistica, ma direttamente chiamandolo per nome e cognome, quando gli ha imputato la sconfitta in campionato e ha detto chiaro con un altro allenatore il campionato lo avremmo vinto e ci ha aggiunto un paio di considerazioni sul conto di Leonardo, insomma io credo che a quel punto uno si possa anche sentire abbastanza libero, no? Non solo poi di comportarsi come gli pare, ma magari anche di accettare l'occasione di una rivincita, di quella rivincita che possono bruciare a chi ti ha ferito in quella maniera. Credo che questo sia assolutamente umano. Diverso è quello che faceva notare l'ascoltatore di prima. Se così è stato, e questo è umano, se così è stato, magari poi le dichiarazioni intermedie, tipo ancora il Milan cucito sulla pelle, magari quelle uno se le potrebbe anche risparmiare, oppure pensarci un pochino di più. Antonio, sì, tra l'altro mi ricorda Franco Piantenita, una delle frasi testuali di quella famosa uscita di Berlusconi in cui disse: io il campionato l'avrei vinto al posto di Leonardo. E allora Leonardo può anche aver pensato che magari non gli dispiacerebbe vincerlo davvero un campionato, magari con un'altra maglia. Insomma, ripeto, tutto questo è umano. Antonio, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno e buon anno a lei. Grazie. Voglio fare piccole considerazioni sulla Roma, visto che sono un tifoso da tantissimi anni. La prima, faccio un passo indietro e se vado di nuovo, diciamo, all'episodio di Ranieri, la famosa sostituzione, in salita Totti a 5 minuti alla fine. Ecco, personalmente, seppur stimo il capitano, che è una bandiera e tutto quello, insomma, che hanno scritto e hanno detto i giornalisti in questi giorni, però non mi sento personalmente di puntare il dito nei confronti di Ranieri. Bisogna capire la situazione, bisogna capire il momento della gara e tante altre cose che lei sa bene che nel calcio da fuori difficilmente si arrivano a concepire. Antonio, però mi dica una cosa, cioè che cosa c'è altro da capire se non che manca un minuto alla fine, non cinque, manca un minuto scarso alla fine, più eventuale recupero, anzi più recupero. Cosa c'è da capire? Si è anche visto la partita, l'ho vista, non so se l'ho vista, però... Certo che l'ho vista, mi dica cosa c'è da capire. No, scusi, velocemente, Totti ha rallentato, diciamo, l'entrata, ovviamente. Per carità, si sarà anche un po' risentito, un po' per la panchina. Totti, ha dovuto legarsi le scarpe, ma abbia pazienza, ma lei si aspetta un minuto alla fine, se si chiama Totti, di dover entrare a giocare una partita? Però credo che, insomma, è stato portato, è stato innalzato quasi come l'ottavo re di Roma lo scorso anno, perché ha portato la Roma quasi a vincere lo scudetto. Adesso improvvisamente diventa un broccolo e questo non capisce di calcio. Non credo che sia corretta l'interpretazione. Ma questa era la prima. La seconda? La seconda velocissima. Seguivo qualche giorno fa una nota trasmissione sportiva e un noto giornalista sportivo, riferendosi all'assetto societario di Roma, tirava fuori una piccola cosa. Diceva: ma De Rossi, in un contesto extrasportivo, gli è scappata, ha usato questo termine, hanno cercato in tutti i modi di distruggere Doni perché ha l'ingaggio troppo alto. Adesso non so se queste frasi sono vere oppure no. Antonio, certo, io non lo so, io sinceramente, cioè quello che dice un ignoto giornalista in un'ignota trasmissione, sinceramente, ce la risparmi, abbia pazienza. Cioè, parliamo tra noi, no? Senza, o citiamo le fonti come si deve, e in questo caso non mi sembrerebbe nemmeno il caso, per l'appunto, oppure è inutile che continuiamo. Anche perché Carlo da Bolzano sta aspettando da qualche minuto buono. Carlo, dica per cortesia. Buona giornata. Sì. Una domanda diretta. Bravo. Io noto in lei a volte un'acrimonia abbastanza importante nei confronti dell'Inter. Mi spiego, quando l'allenava Mancini non era simpaticissimo. Sì. Mourinho lei lo ha definito un cialtrone. Esatto, cialtrone, no? Sì, un cialtro, col trattino. Certo. Vabbè, Benitez. Adesso mi dica. No, Benitez, no, tutt'altro. No, tutt'altro. Benitez, ho detto, lasciamo perdere. Allenato poco, è un signore, va bene. E le dichiarazioni ieri di Ballardini alla fine della partita, personalmente, mi hanno stupito. Ranocchia andava espulso, va bene, però parlare di sudditanza e tutte queste cose qua, forse ieri era. E quindi l'acrimonia con l'accento la sulla sua, I mi viene la da sua, quella? La sua. Mia. Io ho l'impressione che lei, quando parla dell'Inter, è come se l'Inter le stesse come squadra e come dirigenza cordialmente antipatica. Ma pensi, Carlo. Vorrei capire se è vero o se è solo una mia impressione. Grazie, Carlo. 14:56:53, circa 25 secondi più del tempo concessoci per ascoltare queste amenità. Un grazie di cuore a Paolo Corleone in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio a tutti.